Thank you. Thank you. dell'amore che cerchi tu, di tu che vuoi. Thank you. Oh, saremo tutti l'anima offesa, l'anima offesa. Si vendicherà. Thank you. Yeah. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.